Radio Radicale, siamo collegati con Carlo Patrignani. Carlo Patrignani è un giornalista che ha una lunga storia di lavoro all'inizio della sua carriera, soprattutto nel sindacato, nel mondo editoriale del sindacato, prima con Rassegna Sindacale, poi con una rivista specializzata in diritto del lavoro. Con lui vogliamo parlare di un libro appena uscito per l'Asino d'Oro che si chiama Lombardi e il Fenicottero, un libro di cui avete già sentito parlare dalle frequenze di Radio Radicale, anche per un dibattito proprio a questo libro e al protagonista di questo libro dedicato, cioè a Riccardo Lombardi. Il libro, tra l'altro, ha una prefazione scritta da Marco Pannella e si conclude anche con una lunga intervista a Pannella, tra gli altri intervistati a commento del lavoro. Un lavoro lungo, ampio, che tocca diverse fasi della vita politica di Lombardi e di cui vogliamo parlare con l'autore. Intanto però chiedendogli come mai ha deciso di mettere insieme questo volume. Patrignani. Buonasera a tutti. No, il motivo scatenante è una intervista che comparve a fine luglio del 2005 all'indomani della presentazione alla libreria Amore e Psiche del programma delle primarie per l'Unione da parte di Fausto Bertinotti. Un'intervista al Corriere della Sera dello psichiatra Massimo Fagioli, molto ampia, molto articolata, ma aveva una frase che mi ha scatenato un'emozione fortissima, e alla domanda ma lei è comunista? La risposta lapidaria: mai stato, all'epoca ero con il socialismo di sinistra di Lombardi. Perché, e questo Fagioli me lo disse più tardi, più radicale dei comunisti. Ecco, da lì è partita una ricerca molto lunga, anche faticosa, affascinante, su questa figura che io reputo una delle più intelligenti, più oneste, più coerenti della Repubblica Italiana. Riccardo Lombardi io l'ho conosciuto di persona nel 1972 ad un comizio elettorale dove mi portò un vecchio partigiano socialista che mi parlava all'epoca di Lombardi come uno dei pochi politici non intrallazzatori, non dediti alle pratiche odiose delle raccomandazioni, delle segnalazioni, peggio ancora delle tangenti. E da lì è nata una storia durata fino all'85 e l'86, cioè qualche anno dopo la morte di Riccardo, e che io avevo messo via, non avevo più ricordato neanche le commemorazioni, quelle poche che ci sono state da parte dei socialisti nel corso del tempo mi hanno mai fatto riemergere, ritirare fuori questi ricordi, emozioni di avute con quest'uomo. Quella frase di Fagioli ha avuto questo grosso potere di rigenerarmi, ecco, dentro di me l'immagine, e quindi con l'immagine anche i pensieri su Riccardo Lombardi. È cominciato quindi nell'estate del 2005, si è protratto per tutto il 2006 con articoli che io ho scritto per il settimanale Left, che ebbero poi un eco nelle lezioni di Chieti che Fagioli faceva fin dal 2002 raccontando la storia della sua ricerca psichiatrica. Sono proseguiti nel 2007-2008 fino a che è maturata l'idea del libro, e accanto alla figura imponente e ingombrante di Riccardo Lombardi, quella altrettanto straordinaria di una donna che gli fu accanto per 52 anni, Ena Viatto, la quale ebbe l'ardire a soli 24-25 anni di dire di no al leader massimo del Partito Comunista di allora, 1931 parliamo, non di oggi, Palmiro Togliatti, che voleva mandarla all'istituto Marx Engels di Mosca, dove si diventava perfetti comunisti, rispose di no. Da lì cominciò questa storia anche d'amore con Riccardo Iena, si è sviluppata per tutta l'epoca della Resistenza, la Liberazione, Riccardo primo prefetto di Milano e successivamente diciamo, negli anni nostri, fino agli anni nostri, insomma gli anni 80. E queste due figure sono state sempre messe da parte, trascurate, dimenticate, sia dalla storiografia in sé, sia anche dalle cronache, diciamo così, politiche, eppure a leggere gli scritti di Lombardi e anche quei pochi scritti di Iena si ricava qualcosa che ancora oggi è attualissimo e se ne sente davvero la mancanza. Mi riferisco a qualità come l'onestà, il rigore, la pulizia, il dire e di conseguenza il fare coerente e quindi non ingannare le persone. In questi giorni si celebra il decennale di Bettino Craxi, c'è un coro di storici, di politici a celebrare l'ex presidente, il primo presidente del Consiglio Socialista. Io di fronte a tutte queste celebrazioni resto stupito, meravigliato di come si possa attribuire a Craxi una rilevanza così esagerata, così veramente sopra le righe rispetto invece alla trascuratezza, alla dimenticanza del 25esimo anniversario della morte di Riccardo Lombardi. Una sola cosa vorrei dire, si è detto e si continua a dire, a ripetere fino alla noia di un Craxi autonomista, figlio di prediletto di Nenni, altrettanto autonomista. Io dico che questo non è affatto vero. Chi ha portato nel PSI, nella cultura socialista, il concetto, il principio dell'autonomia è stato Riccardo Lombardi e lo fece in anni prima ancora di aderire al PSI, quando lui era ancora nel Partito d'Azione, quando lui insieme ad altri grossi esponenti politici come Calamandrei, come Foa, come Parri, come Ernesto Rossi, si battevano contro lo scempio del voto favorevole all'articolo 7 della Costituzione, con cui fu elevato a norma costituzionale, furono elevati a norma costituzionale i patti lateranensi fatti da Mussolini e dalla Chiesa, da Togliatti e da De Gasperi. E lui portò, ecco, il concetto di autonomia, perché il socialismo per vivere, per essere vitale e per conquistare poi diciamo, i consensi ha bisogno di un'autonomia vera, di un'autonomia solida, di una identità, ecco, socialista a 360 gradi. Portò questa cultura dell'autonomia e fu subito bersagliato da Morandi, dallo stesso Nenni, da Pertini, che allora erano fusionisti, erano anche stalinisti. C'era questa intrusione, questo legame forte di quel PSI frontista con il Partito Comunista Italiano e soprattutto con il mito dell'Unione Sovietica come patria del socialismo. Lombardi capì, insieme ad altri comunisti eretici, penso a Terracini, penso a Di Vittorio, penso ad Antonio Giolitti, penso cioè a tutte quelle persone che capirono, compresa Ena Viatto, che capirono che il comunismo non era quello, quello realizzato, non era quello ipotizzato dallo stesso Marx. Ecco, il libro è questo, il libro è il ricordo e in qualche modo modestamente può essere anche un fatto di rendere giustizia a Riccardo Lombardi. Mi è piaciuto molto nel fare il libro questo contatto umano con Marco Pannella. Abbiamo parlato tante ore nel suo studio scarno come quello di Riccardo, attore argentina, e qui ho avuto modo di apprezzare la signorilità di Pannella. Di fronte a questa commemorazione del 25esimo della morte di Riccardo si è posto subito il problema. Io non voglio approfittare di questo per parlare di Riccardo. Lo faranno i suoi compagni socialisti, diranno loro di Riccardo. Poi, trascinato dalla mia insistenza, la sua l'ha detta. E man mano che la conversazione andava avanti, più di una conversazione, non una sola, riaffioravano tanti ricordi di battaglie comuni, non solo quella dell'articolo 7 della Costituzione, del famoso decreto sull'amnistia voluto da Togliatti e controfirmato da De Gasperi, con cui si liberarono tantissimi giudici, magistrati che avevano condannato alla prigionia gente come Pertini, come Terracini, ma si liberarono tanti fascisti rinchiusi in carcere. Ma non solo questo, riaffiorarono le firme che Lombardi ha sempre apposto a tutti i referendum del Partito Radicale, quella alla battaglia sul divorzio, sull'aborto, quindi riaffiorava quell'anima, come posso chiamarla, azionista, giellista, libertaria, che accomunava questi due grossi personaggi, per me eretici, originali, atipici della politica italiana. E questa, diciamo così, è stata la cosa che più mi ha diciamo entusiasmato, senza dimenticare la bella intervista a Ciriberto, al filosofo, grande studioso di Giordano Bruno, o quella a Giorgio Ruffolo, veramente un gran signore, un gran galantuomo, che ha saputo dire di no ad un convegno già programmato dal presidente della Fondazione della Camera Fausto Bertinotti insieme al presidente della Camera Fini per il 23-24 settembre, il rifiuto di Ruffolo si legava alla compagnia non adeguata a commemorare Riccardo. La stessa compagnia, come mi ha detto poi Pannella, che lo porta a non partecipare alle commemorazioni di Bettino Gracchi. Ecco, parliamo un po' di questa compagnia, perché una parte di questa compagnia è anche parte di quella sinistra lombardiana, come si chiamava ai tempi, per esempio Cicchitto, che è uno dei personaggi che erano attorno a Lombardi in quegli anni. Questo rapporto, diciamo, tra Lombardi e i suoi sostenitori, tu come lo puoi raccontare in qualche modo? Senti, io ho una testimonianza che ho messo nel libro, nella sinistra lombardiana il mio referente in quegli anni era Fabrizio Cicchitto e tutto il suo entourage che gestivano la sinistra lombardiana di Roma e provincia. Cominciò nel 77, io ebbi un'offerta da parte di Cicchitto di andare a lavorare alla settimanale della CGL Rassegna Sindacale. A me piaceva molto fare il giornalista e non potevo non cogliere quella opportunità, quella occasione. Ci andai e cominciai il mio primo servizio da inviato, come sono invece poi diventato solo nel 1992, andando all'ospedale psichiatrico di Trieste per un servizio su Basaglia e sulla chiusura dei manicomi, quindi su quell'esperienza triestina. Quel servizio non è stato mai pubblicato perché mi si diceva che era poco rispettoso di Basaglia, un incontro che mi lasciò molto a disagio, molto sconcertato, che più che un'intervista quello fu un monologo di quest'uomo abbandonato su una poltrona che parlava di cose che solo in parte io riuscivo ad afferrare, un'intervista registrata, e capivo ben poco di questa sua rivoluzione, di come veniva detta. Ebbi modo poi successivamente, insomma, di sentire invece Riccardo parlarne in modo tutt'altro, in termini tutt'altro che rivoluzionari. Preferiva i tormenti, preferiva i dubbi, preferiva le perplessità e soprattutto le critiche che alla 180 rivolgeva Mario Tobino, uno psichiatra che aveva un passato anche di partigiano, un socialista che si dimise dal PSI all'indomani dell'approvazione di quella legge. Cicchitto non mi piaceva come gestiva la sinistra socialista, e io questo lo dissi a Riccardo. Pensavo che fosse una cosa così detta e sarebbe rimasta lì. Poi ho avuto modo di rintracciare in tutto questo lavoro di ricerca di materiale un appunto di Riccardo in cui diceva ore 9:30, riunione della componente, dire a Cicchitto che Carlo Patrignani della sezione Giacomo Brodolini di Campagnano è insoddisfatto della gestione di Cicchitto. Questo mi ha scatenato un'emozione incredibile, perché a distanza di 26 anni ritrovare un appunto di quel genere dava proprio la dimensione della straordinaria umanità dell'uomo, di come lui teneva al rapporto con le persone e non dimenticava nulla. Che dire di Cicchitto? Io ricordo che qualche settimana prima che scoppiasse il bubbone della P2 facemmo una riunione della sinistra in cui il leitmotiv era: la sinistra lombardiana deve essere d'esempio nel Partito Socialista per moralità e per onestà. Una settimana dopo comparve su Repubblica e sui mass media l'iscrizione di Cicchitto alla P2, fu un trauma enorme. Che dire, forse hanno capito male o non hanno capito per niente forse il messaggio di Riccardo, sia lui sia Cicchitto, ma penso anche a Signorile, penso a De Michelis, penso a tante altre personaggi socialisti della sinistra che fecero il salto passando con la maggioranza craxiana, hanno capito male o non hanno compreso affatto il messaggio appunto di Lombardi, come lui intendeva, che cosa lui intendeva per fare politica, che cos'è la politica, a chi indirizzare la politica, per chi farla. La politica è qualcosa che si fa per passione, per amore, in maniera del disinteressata. Bisogna avere una grossa identità per fare politica e poterla fare per migliorare le condizioni di vita degli altri. In questo mi è rimasto il ricordo vivo di un grande sindacalista della CGIL degli anni Ottanta, il quale nei suoi 31 anni di milizia nel PSI è stato sempre lombardiano, non si è mai discostato da una certa linea, da un certo modo di far politica anche nel sindacato e poi dopo aver lasciato il sindacato nella politica. E quest'uomo appunto si chiama Fausto, ma di cognome si chiama Vigevani, uno dei migliori sindacalisti della CGIL, rimasto fedele, si può dire fedele, ma integro rispetto a un certo modo di fare politica. Oggi è difficile dirsi socialisti perché c'è questa macchia all'origine, questa grossa macchia di Tangentopoli. Riccardo diceva: nell'83 ci sono più socialisti in galera oggi che all'epoca del fascismo, ma già il 30 giugno del 1984, nell'ultimo intervento che lui fece ad un organismo del PSI, il Comitato Centrale dell'Ergife, concluse una sua arringa che credo che Craxi non abbia mai sentito un discorso più severo, più critico da un socialista nei suoi confronti, concluse la sua ringa dicendo: un PS così non ha motivo di esistere. A Riccardo non serviva poi Tangentopoli per capire che quel partito socialista non avrebbe avuto alcun futuro. Molti anni prima di Tangentopoli. Molti anni prima di Tangentopoli. È un altro grande socialista che tuttora vivente, a dire: se il PSI avesse dato ragione a Lombardi, puntini, si chiama Antonio Giolitti. Ecco, sono queste, insomma, voglio dire, quelle figure carismatiche, con una forte identità, con una forte personalità, che fanno della coerenza, del rigore, dell'onestà le loro armi vincenti, che restano poi indelebili nel corso del tempo, non vengono scalfite minimamente nel corso degli anni, e ottengono riconoscimenti grossi. Io penso per esempio a quello che Di Giolitti ha detto Napolitano, ebbe ragione lui sui fatti d'Ungheria. Ecco, anche lì per esempio nel corso del 2006, nel ricordare il cinquantesimo dell'invasione dell'Ungheria, i media si sono tutti indirizzati: Nenni ebbe ragione su Togliatti. No, non è vero, non fu Nenni ad avere ragione su Togliatti, fu Lombardi ad avere ragione su Togliatti. Nenni venne dopo. Nenni vinceva i premi Stalin, Nenni era quello che del Fronte Popolare, Nenni era quello che andò in Russia su indicazioni e su appoggio di Togliatti a chiedere aiuto al PQS per ribaltare il congresso del 49, quando vinse la corrente autonomista capeggiata da Lombardi, da Foa, da Iacometti. Ecco, voglio dire, questi sono. Poi dopo che Nenni prese le distanze dal Partito Comunista, lui la toglie al valore della cosa in sé, ma dire che Nenni ebbe ragione su Togliatti, secondo me, storicamente è errato. Chi ebbe ragione non solo diciamo così su Togliatti, ma sull'impostazione di quel tipo di comunismo realizzato in Unione Sovietica fu Lombardi, e ripeto, insieme ad altri grossi personaggi politici che vengono ricordati malvolentieri, penso a Di Vittorio, penso a Vittorio Foa, penso allo stesso Giolitti, cioè gente, a Bruno Trentin, ecco, a questi personaggi della sinistra che videro per tempo l'essenza del comunismo, per non dire ovviamente di Marco Pannella. O di altri, diciamo, personaggi politici che mantennero questo filone dell'azionismo, penso allo storico che non c'è più come Gaetano Arfè. Quindi voglio dire, c'è da ribaltare in qualche modo questo andazzo della storiografia, che è fondamentalmente errato, e non rende in questo modo giustizia a grossi personaggi della Repubblica che l'hanno fatta, che l'hanno costruita giorno per giorno. Voglio dire soltanto l'ultima cosa, che stasera c'è per la serie La storia siamo noi, una trasmissione di Giovanni Minoli su Rai 2 per il decennale di Craxi. A leggere le anticipazioni su questa trasmissione non compare mai il nome di Lombardi. Io credo che questo non sia né un buon modo di fare storia e soprattutto di fare giornalismo. Carlo, anzi, possiamo rimandare a chi ha ascoltato questa intervista al libro, perché nel libro ci sono alcuni passaggi. Naturalmente c'è il momento del Midas in cui Lombardi approvò la svolta di Craxi, ma ci sono poi appunto i passaggi successivi dal 79 in poi, con le critiche fino a quella durissima che hai ricordato tu del 1984, allergife sul destino che avrebbe travolto in qualche modo il Partito Socialista. Noi concludiamo ricordando il titolo di questo bel libro, Lombardi e il Fenicottero, Asino d'Oro Edizioni, Carlo Patrignani è l'autore ed è la persona con cui abbiamo parlato e che ringraziamo per questa intervista. Grazie. Buonasera, grazie a voi.